Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a tutti gli ascoltatori, bentornati a Smart City. Al 31 di agosto il bilancio degli incendi boschivi in Italia ammontava a 650 grandi focolai per 124.000 ettari di bosco andati in fumo, 6 volte la superficie dell'isola d'Elba. Oltre al danno ambientale, considerevole come si sa anche il costo di questi interventi, solo per fare un esempio, i famosi Canadair che vengono utilizzati quando gli incendi sono particolarmente problematici, il volo di un'ora di questi aerei costa circa 8.000 euro. Questa sera allora andiamo sull'Appennino Emiliano Romagnolo per parlare di un innovativo sistema di monitoraggio che si sta mettendo proprio lì alla prova. Parliamo di eFlame, un sistema con il quale si punta sostanzialmente a individuare i focolai prima che diventino difficili da spegnere. La soluzione è stata sviluppata da Elimos, che è un'azienda ospitata dal Parco Tecnologico Area Science Park di Trieste, e di Elimos abbiamo in linea il presidente ma anche responsabile tecnico Pier Giorgio Menia, benvenuto. Buonasera a tutti. Ci descriva, tanto per cominciare, anche un po' fisicamente da che cosa è costituita questa tecnologia eFlame. Il sistema è costituito fondamentalmente da 3 unità. L'unità più importante è quella che viene dislocata sul territorio in ogni punto di operazione ed è un sistema di scansione del territorio realizzato su un'unità che è mobile, in grado di ruotare in verticale e in orizzontale, e da 2 telecamere, una nell'infrarosso e una nel visibile, che cercano in qualche maniera di analizzare l'immagine che arriva dal territorio e di trovare degli eventuali preallarmi o allarmi. Quindi possiamo immaginare, diciamo, 2 telecamere, appunto una nel cosiddetto infrarosso, cioè sensibile alla temperatura, montate in cima a un palo, possiamo vederla così, che possono guardare un po' in tutte le direzioni e continuano a esplorare il territorio alla ricerca di segni di incendio. È più o meno questo. Ecco, esattamente. Che cosa sono in grado di rilevare questi apparati e su che area? I sistemi, come dicevo, possono scandire 360 gradi in orizzontale e circa 80 gradi nel verticale. Sono stati progettati per trovare uno spot di incendio di circa 2 metri di lato, quindi un cubo, diciamo, di 2 metri di lato, testato a 4-5 km di distanza. Questo è il lato di targa, che equivale, nel momento in cui si monta l'apparato su una cima più alta, a circa 50 km quadrati di territorio scandibili con un sistema. Con un singolo sistema. Ecco, quello che osserva, diciamo, uno di questi sistemi, le informazioni che arrivano da questi sistemi, poi come vengono gestite? Diciamo che localmente, quindi sul sito, c'è un'unità autonoma, quindi un computer autonomo in grado di funzionare comunque anche se non è collegato con le workstation del centro di controllo, che analizza continuamente i dati termici che arrivano da questa telecamera infrarosso radiometrica, e in caso di necessità la prima cosa che fa, vengono segnalate delle condizioni di preallarme e di allarme dopo aver passato una certa fase di filtraggio, in maniera di evitare di essere un... Cioè, situazioni in cui non è certo che ci sia, non c'è una fiamma visibile, ma ci sono per esempio delle temperature un po' troppo alte che fanno insospettire. Esatto, ci sono delle soglie sia temporali che di movimento che fanno sì che il sistema eviti di bombardare continuamente, perché ecco, per capirsi. E poi queste informazioni, in caso, vengono mandate al server centrale. Questo server centrale poi può veicolare le informazioni di allarme alle workstation, che possono essere multiple, o anche a degli apparati mobile. Workstation, cioè, vuol dire che magari, siccome in queste operazioni possono essere coinvolte, non so, varie forze, la protezione civile, se la guardia forestale, lei dice workstation nel senso che va al centro di comando sia della guardia forestale sia, per capirsi, della protezione civile. Esattamente, d'accordo. Esattamente, ci possono essere multiple workstation, ognuno può gestire uno o più apparati e anche andare a fare dei monitoraggi senza necessità che ci sia un incendio, perché comunque, avendo anche una telecamera nel visibile con uno zoom anche abbastanza potente, uno è in grado comunque di utilizzarlo anche per operazioni di sorveglianza generale. Che non non sono necessariamente neanche legati a qualche principio esatto. di incendio. Senta, siamo partiti da questa sperimentazione che si sta svolgendo proprio in questo momento sull'Appennino Romagnolo-Emiliano. Dove, come sta andando, che cosa è successo? È scoppiato qualche incendio? No, per fortuna in questo momento non è. Diciamo ci sono due sistemi installati in due punti diversi, uno a circa 1500 metri di altezza e uno un po' più basso, sui due lati dell'Appennino, uno lato tirrenico e uno lato adriatico, e ci sono due workstation operatori che sono state portate alla protezione civile, ai vigili del fuoco e alla guardia forestale, ora carabinieri. Certo. Che hanno in carico, perché naturalmente questo sistema non vuole portare via il posto all'uomo, c'è sempre un operatore che poi deve decidere, ha la possibilità di capire, di andare a analizzare. Sì, ma non si pone neanche il problema, perché non è che prima avessimo ovviamente un milione di guardie forestali che camminavano continuamente in giro, no, per cercare incendi. Ecco, diciamo, questo non è il caso, diciamo che la tecnologia che toglie il lavoro all'uomo, non è questo il caso. Esattamente. E quindi insomma adesso sono proprio vigili del fuoco e guardie forestali che stanno testando sostanzialmente il sistema. Sì, sono loro operativamente, hanno queste due stazioni di controllo e possono monitorare, e in caso di eventuali eventi possono decidere cosa fare. Ci sono stati anche alcuni trigger di preallarme dovuti prettamente a dei pezzi di metallo che sono rimasti sotto il sole nella giornata molto calda, e si riuscivano a leggere questi spot caldi. E certo, se arriva un oggetto di metallo sotto il sole, arriva magari 80-90 gradi abbastanza facilmente. Senta, un'ultima domanda: spesso si parla del problema della connettività in questo paese, che non è ancora così diffusa. Voi addirittura dovete connettere degli apparati che si possono trovare in zone abbastanza remote. È un grosso problema? No, questo non è un problema, perché il sistema è stato espressamente progettato per poter lavorare sia su reti a banda larga che su reti a banda più stretta, come reti cellulari o reti o link satellitari, quindi questo non è un problema. E nel caso ci sia banda larga si possono portare naturalmente informazioni come le immagini, mentre invece nel caso ci sia una banda molto molto stretta si portano solo informazioni essenziali come la pura segnalazione dell'allarme di incendio. Che sono pochi byte sostanzialmente, lei dice. Nel caso in particolare abbiamo avuto questa, diciamo, questa sinergia con quello che è stato il nostro cliente, che è la Lepida S.p.A., che è la società che si occupa delle reti per la regione Emilia-Romagna, e c'è una cosa molto importante: loro hanno la fibra ottica praticamente su tutti i comuni della regione, nonché hanno circa 200 torri dove ci sono già installate delle antenne che loro usano per portare la connettività nei paesi che possono restare sotto digital divide, il che significa che hanno già dei punti di osservazione perfetti allo scopo, dotati di connettività a larga banda ed anche energia elettrica, che non è poco. Va bene, grazie Pier Giorgio Menia, e in bocca al lupo per la prosecuzione di questa attività, di cui evidentemente c'è bisogno, insomma, un monitoraggio migliore del territorio. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani.